sul sinistro e sta perdendo la Juve, perde 1-0. Vabbè, sì, beh certo, c'era nel finale, c'era, basta, stai facendo anche una cortesia, visto e considerato che in questo momento non c'è per comprarla. Per cui, va bene così, certo. No, ma io la verità mi va benissimo, soprattutto perché avevo risolto il problema del vento che si chiama nel radiale. Per carità, grande antenna, sicuramente, probabilmente anche superiore alla Game Master. Non lo so, la Mato Batumbo che avevo e che ho sempre conservata roba nuova, devo dire che era un'ottima antenna, veramente. Praticamente allo stesso livello era la stella, perché la tortina centrale, nonostante che era molto ma molto tortina della Mato Batumbo e della 5 anche, è molto più sottile, eppure non si è mai, non solo il rompet, ma non si è mai piegato nonostante il vento che ha preso. Mentre invece i radialini, essendo dei tubi e da 8 mm, a differenza della Mato Batumbo che ce l'ha da 10 mm, quelli me li raffermano i piccioni quando si mettevano sopra, o 3-4 piccioni, poi quando si cavano loro, naturalmente, o si da uno, si da domani me l'hanno aspettati. Però la stella era una grande antenna, per me è stata una bellissima antenna. Oltre al fatto che erano anche scurti, erano solo 70 cm di radiale. E va bene, se credi, ciao Claudio. Molto tutto quello che vuoi, perché anche qui il vento non scherza, non a caso io vedo il mare, vedo, la soprattetto, per cui anche perché case alte più della mia non ce ne sono tutti alla stessa altezza qua, e il piano regolatore è così, dunque nessuno può costruire case più alte, per cui va bene così, e il vento ti posso garantire che lo prende in pieno, ma veramente in pieno, qua non dico come Porta Torres, ma quasi. Poi, tornando al discorso Porta Torres, guarda che c'era anche Eugenio, e anche lui è lì a Porta Torres, il vento non scherza, come hai detto tu, sicché sino ad oggi la sua antenna funziona perfettamente, Claudio. Dici quanto sta piovendo? No, va bene, va bene. Vanno bene quelle antenne, ti ripeto, dipende da dove le monti, perché secondo dove le raffiche di vento che c'è, puoi fare danno. Questa io l'ho già testata, perché ti posso garantire che qua di vento ne tira parecchio. Anche adesso sono raffiche di vento, pioggia a gugù, proprio sta buttando a tutto buttare. Va bene, infatti aveva uscito il cane, ha fatto la pipì, ha guardato e se ne è rientrato dentro. No, vabbè. E niente, era già pronta, già con le misure fatte, le metto i segni, quindi perché la devo smontare, altrimenti è troppo ingombrante. Mentre invece quella di Carlo gliela do già col piantone pronto, già accordata, tutto, dove solo mette gli stili, ma è vicino, ci sta nella macchina, sopra l'imperiale ce la porta via già così, capito? Perché gliel'ho già detto che deve prepararlo io. Va bene, Roberto si è spostato sull'uno. Vabbè, ci siete? No, è sciogliere. Insomma, di pioggia che sta facendo, me ne accorgo io, lo sento. Qui c'è la finestra dietro il carrello che batte, già ci sono le doppie finestre, interne ed esterne al carrello, però già la vedo l'acqua che sta scendendo a tutto scendere. Riprendi Giulio. Ok, io no, la pioggia non la sento, la posso sentire quando dal terrazzino magari può scendere il rubinetto, per così dire, perché magari sotto c'è la macchina e allora sul cofano della macchina un piccolo rumorino non lo sento quando qui le finestre sono chiuse e siamo proprio isolati praticamente, perché ci sono c'è il vetrocamera che fa da insonorazione, per cui non c'è problema. E io quando avevo fatto le finestre me le sono fatte così, col doppio vetro, e allora per tanti motivi, un po' per la temperatura e un po' anche per i rumori strani, eccetera, eccetera. Per cui sto bene, no, non c'è problema. Sì, va così. Tu hai fatto bene, poc'anzi, a fare quell'esempio con la marmiglia, la macchina Panda di una volta, che poi avevano fatto un altro tipo che era spagnola e si chiamava Marmiglia, così mi aveva corretto la buon'anima di Emanuele, che lui era spagnolo, anche se era scritto Marmella, però dice sì, si scrive Marmella, però si pronuncia Marmiglia con la già. Capito, Claudio? Io non lo sapevo, come tutti gli italiani che la chiamavano Marmella, ma dice sì, Marmella c'è scritto, però si pronuncia Marmiglia. Questo me l'aveva detto la buon'anima di Ponzio Pilato, cioè Emanuele. Vai, Claudio. Sì, Marmiglia, sì. Marmella c'era scritto. Era praticamente la panda fatta in Spagna, che poi è risultata una truffa totale, mille problemi, mille cose per risparmiare nulla, come ho detto poc'anzi, no? Cioè se io vado a comprare dalla Smartec, io ho l'antenna che c'ha un anno di garanzia, capito? Vado a comprarla dalla Procista, garanzia non te la dà perché è un prototipo, è copiata. Se la casa costruttrice la Smartec, si compra dalla Smartec, di quasi non lo vedendo. Per risparmiare che cosa? 20 euro? Ma lasciamo perdere, è così, la stessa cosa, tutto qua. Vediamo un po' se vuole entrare qualcuno. Andy Moore, andiamo a facendo la Juventus. Sta vincendo, iniziando dagli ultimi. Andy Moore, andiamo. Comunque io devo ascoltare la Roberto, là. prima esperienza per lui. È la prima volta che trasmette. L'ho fatto trasmettere io come secondo operatore ieri, abbiamo fatto delle prove, già si adatta piano piano. Col mio nominativo, secondo operatore, chiaramente c'è un, ci sono dei passaggi da fare, deve essere a fianco a me, io apro il QSO e poi lo chiudo, ma lui può usare il mio nominativo appunto dicendo secondo operatore Roberto. Bisogna rispettare le leggi, giusto così per farle fare delle prove, perché dovevamo provare la sua radio, testarla, vederla, fare delle regolazioni, e con Marco insomma siamo spostati, abbiamo fatto tutte le regolazioni. Ma già va bene, lui è già arrivata la patente, quindi già l'avviamatore a tutti gli effetti, penso che lunedì le diano il nominativo, così poi sarà pronto anche lui. Avanti Giulio. Ok, meglio così. Già fa esperienza che lui, già è una persona molto attiva, Roberto, già è in gamba, no? Non è certamente uno stupido, già se riesce a instradarsi bene è molto in fretta anche, sì, certo. Sì, anch'io, ieri anch'io ho seguito, lo dico anch'io, io non, certe cose non le dico mai per questo, ma visto e considerato che tutti quanti ne avete parlato ieri, lo dico anch'io ho ascoltato su quella frequenza e arrivava molto bene anche qua da me, per cui, però io ho un altro carattere, rimango un pochino frenato per certe cose, non è il caso veramente, per cui, ma tutti quanti ne avete parlato, tutti vanno ascoltati, tutti quanti hanno detto che l'hanno sentito, ma io non l'ho detto ieri, ma adesso lo sto dicendo, ma comunque comunque non fa niente. Niente di male, per carità, ci mancherebbe altro, però io quando si tratta di cose diciamo un po' personali, come nel tuo caso, che tu hai detto, lo facciamo entrare come secondo operatore, va benissimo, non c'è problema, però io la verità rimango a certe regole. Avanti Luca, vuoi entrare? Le regole sono quelle, purtroppo lì, Gussi, non è come la 27, no? Che poi quando chi sui timani di Biaggi. Le regole sono quelle, basta, lo stavo ascoltando, dove arrivava un po' bassino, Claudio tu sempre il solito a bomba, Marco idem, anche Coso, Gianfranco lo stesso, gli arrivava benino, non bene, comunque io lo sentivo abbastanza. Roberto basso di radio. Perché stavamo regolando la sua radio. Giulio è legge, non è che abbiamo fatto niente di male. Un radioamatore in attesa di nominativo può parlare a casa di un altro radioamatore. C'ero io, quindi non è che a casa di un altro radioamatore col mio nominativo come secondo operatore. Ok? Però io devo aprire il QSO e io lo devo chiudere. Devo essere presente tutto lì, quindi non è che abbiamo fatto niente di, era giusto per dare la possibilità a lui di chiacchierare, di provare, di vedere, di testare la sua radio, ma con la mia antenna, tutto qua, va bene, adesso poi si arrangerà da solo, insomma dovrà camminare da solo come abbiamo fatto tutti, io ho fatto 20 anni di pirata, quindi quando poi sono entrato definitivamente in radio ero uguale agli altri, perché mi avevo già fatto la mia esperienza, lui piano piano se la farà, come tutti, nessuno è nato imparato. Va bene, ok, avanti Giulio. Sì, avevo capito benissimo qual era il sistema appunto per farlo entrare eccetera, quello sì, ma io mi riferivo al fatto della CB, cioè che un QSO diciamo in un certo senso non illegittimo, no, per carità, no, però diciamo non regolare al 100%, visto e considerato che lui era a casa sua, in poche parole, per essere chiari, ne stavano parlando secondo me un po' troppo in 27, ecco, solo quello intendevo qua, però niente di particolare, ci mancherebbe altro, no? Niente di anomalo, andava bene, tu a me che cruci ormai, io sono una tomba per certe cose, non lo sai benissimo. benissimo, no? Ormai noi ci siamo spiegati mille volte al telefono, non in frequenza così al 27, ma al telefono ci siamo spiegati mille volte, io capisco a te, tu capisci me, dunque capisci benissimo quello che intendo dire, non sto facendo una rimprovero o un'osservazione, no, assolutamente, me ne guarderei bene, ci mancherebbe altro, capisci io Claudio? Avanti Luca! Sì, ti ho capito, ma non so, fesserie quelle, no? E se stiamo a guardare tutte queste cose, no, non è un problema. Abbiamo fatto una prova e va bene così, adesso si vedrà più avanti. Va bene. Kappa, io ti ripeto, gli ho fatto 20 anni di birata, quindi l'importante è non rompere scatole a nessuno, se poi uno ha bisogno di fare una prova, anche non essendo definitivamente in regola, è così, perché noi siamo in regola, io sono in regola, io non sono in regola, uso un HF in 27, quindi non sono in regola, mi assumo le mie responsabilità da 40 anni a questa parte, quindi non me ne frutti nulla, ognuno può dire, fare, disfare, pensare quello che vuole. Ognuno, io ho sempre detto, si assume le proprie responsabilità, ma togliamoci dalla testa che nessuno è in regola, quindi se dovessimo essere tutti in regola saremmo tutti dei perfettini, però siccome non siamo tutti perfettini, allora basta che ognuno si faccia i fatti suoi, che non vada a rompere scatole a nessuno e che pensi a se stesso invece di andare a parlare, sparlare e criticare gli altri. Tutto qua, e chiudo il discorso. Luca. Si conferma, io te l'appoggio qua, te l'appoggio, così sia. Non c'è nessuno, non è in regola, nessuno. Trovami qualcuno che ha un baracchino che è uno cazzo, forse mi dà Natalino, forse è lui. Però gli altri, me compreso, però non c'è problema. Quando uno si comporta bene, giusto a scherzare, va bene. Io sono occupato così, il mio carattere deve essere in frequenza, prima era diverso, è così, non riesco a essere diverso. E nessuno mi cambia, poi se qualcuno domani mi dovesse dire cosa o rimproverare, allora guarda, giusto così, pillo il cacco, ciao, invece grazie. Ancora nessuno mi ha detto niente, che mi ha rotto le scatole, non dire altro. E il carattere mio è questo, non potrei cambiare qua, assolutamente. No Luca, io ho preso troppi colpi in radio, quindi mi sono ritirato. Ognuno è libero di fare quello che vuole e pensarla come vuole. Io mi faccio i fatti miei, non me ne affrutti nulla di nessuno. Avevo anzi deciso con lo spostamento della casa di non entrarci mai più e di fare solo la mia parte amatoriale. Invece purtroppo non ci riesco, la verità. Non ci riesco perché ho iniziato da ragazzino qua e con tutto che sono radioamatore dal 1993, come tutti sanno, io ci sono sempre stato in 27 e ci sarò sempre, però ho cambiato tattica, ho cambiato carattere, non me ne affrutti nulla di nessuno, fuori da Reggio Aramelli, a casa mia non ci viene nessuno, nessuno sa dove abito, o perlomeno intuiscono, ma sarà molto difficile che mi trovano sicuramente, perché do solo la posizione inesatta di dove sono, perciò non mi interessa, proprio non ne voglio fare per i fatti miei, tranquillo e sereno. Mi hanno messo troppe volte in mezzo, accusato di cose che non ho fatto, mi hanno fatto bisticciare con tantissima gente, mani fatte a pezzi, e qualcuno che lasciamo perdere, anche da poco, poi ingenuo proprio, da poco, Dio, l'anno scorso, insomma, ero ancora nella vecchia casa, ingenuo, ma ingenuo veramente, nonostante sia una persona grande, capito? Mi ha fatto a pezzi in un audio, l'ha mandato ad un'altra persona, quello me l'ha mandato a me, e infatti non ho detto manco ba Luca, guarda, non ho detto manco ba, non dirò mai niente, non me ne affrutti nulla. Nulla, ho preso, dov'è il numero, clic, fuori dalle balle, questo cos'è, WhatsApp, bloccato, fuori dalle balle. Poi se l'ha voluto capire, l'ha capito, ma sicuramente è tonto e non l'ha ancora capito, che a me non mi deve cercare, non mi deve manco salutare. Ok, quindi è meglio che si inizia per i fatti suoi. Giusto così perché ho cambiato carattere, che se no mi avrebbe staccato un gabbo, avrebbe buttato in altri beni. Vai Giulio. Ok, beh, certo. No, ma diciamo che ormai abbiamo tanta esperienza della frequenza e dunque ci dobbiamo comportare a modo, no? Il primo sei appunto mantenere le regole, soprattutto quando la gente usa il PMR, eccetera, eccetera. Hai ragione, a 1000 per 1000, no, non al 100%, ma a 1000 per 1000. Per cui anche con i barattini, eccetera, poi sappiamo benissimo che nessuno di noi è in regola, lo sappiamo benissimo, no? Ma proprio per questo motivo dobbiamo essere persone intelligenti, da non sbandierarlo al 420, perché se ci dovessero controllare sappiamo benissimo che tutti quanti abbiamo dei problemi, o avremo dei problemi, per parlare bene l'italiano. Ecco, questo che intendo dire qua. E io oltre all'esperienza personale che ho fatto, io ascolto anche gli altri, le altre persone che hanno una certa esperienza, che perché non è che sono così cretino da non dare retta anche ad ascoltare gli altri, ascolto anche gli altri, perché quello che penso io non è che non è religione. La religione deve essere universale, di tutti, per cui io mi comporto in una certa maniera e poi ascolto anche gli altri, consigli degli altri, perché è giusto che sia così, perché nessuno è nato imparato e fin quando avremo vita avremo sempre da imparare tutti quanti. Vai Luca. Luca ogni tanto si allontana. Sì, ma infatti se prima ero così, a quei livelli, che stavo sempre dicendo non fare questo, non fare quello, non fare quello lì, non parlare lì, adesso proprio non me ne può fregare di meno. Uno faccia quello che le piace, a me non mi debbano cercare. Mi sono escluso un po' da tutto e ne ho escluso parecchio, non ti preoccupare. Sono rinato, sto bene, vivo tranquillo, sereno, quando ne ho voglia faccio due chiacchiere se c'è la gente che mi interessa, altrimenti non mi interessa Giulio. Tutto qua, come vedi, primo periodo molto assente, adesso visto che la frequenza si è ripopolata di quelle persone interessanti che posso appunto stare in mezzo a chiacchierare, e va bene così. Dal momento in cui dovesse cambiare me ne sto per i fatti miei, non ci sono problemi. Però a me non mi sentirai mai più riprendere nessuno o dire quello che devi fare, quello che non devi fare. Se c'è un questione inerente cerco di starmene tranquillo e sereno, non me ne affrutti nulla. Se poi devo ribadire e dire qualcosa, è lecito dirlo, c'è la libertà di parola nella Costituzione italiana, quindi ognuno può dire quello che vuole. L'importante è che a me non mi tocchino, io sono per i fatti miei e penso di rimanerci in vita naturale durante, perché tu sai benissimo il colpo che ho sempre preso per colpa degli altri e senza me aver mai fatto niente. Tutto qua, chiudiamo il discorso che non mi interessa. Ok, veniamo Luca. Sì, Clara, io sono pronto. Io butto un giubbotto, la sciarpina sotto e stiamo uscendo, andiamo a mangiare qualcosa, poi boom, già da qualche parte e niente. E lo so, io dico una cosa solo qua, che c'è gente molto furba, non aggiungo altro. Dai, buona serata, alla prossima. Ciao Lugarie, furba è una parola molto leggera, c'è gente molto infame, che è diverso. Coprati bene perché c'è un freddo, da paura e sta piovendo a dirotto. E se vi spostate andate piano con la macchina, vai Giulio. Ok, ciao Luca, grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo alle prossime. Buona passeggiata e buona mangiata di pizza probabilmente. Perché intanto si sa la sera, soprattutto i giovani come te, cosa devono fare? Andare a mangiare una bella pizza in santa pace tranquillamente. Sì Claudio, ma è così, non si può andare lì a dire hai detto bene, la parola più giusta è infame. E io aggiungo magari vigliacchi, ci sono anche dei vigliacchi, nonostante tante volte le apparenze, sia ben chiaro, nonostante le apparenze, no. Ognuno deve selezionare le persone e io devo essere sincero, le ho selezionate. Sono educato con tutti, chiaramente, perché rispondo con tutti, perché è giusto che sia così. Però poi alla fin fine se c'è qualcuno che fa qualche vigliaccata, per me quello è una persona da allontanare. Magari magari sento la malattia, la saluto, perché è giusto che sia così, è un'educazione mia personale, però se un domani dovesse capitare l'occasione di vedersi faccia a faccia, io passerei dall'altra parte senza stare lì a tirare troppo le lunghe e ad aprire discorsi inutili con persone che magari fanno delle vigliaccate in certi modi. Tutto lì ho Claudio, poi tu ormai mi conosci, siamo 40 anni che ci stiamo parlando, abbiamo discusso tante volte al telefono, ormai tu conosci il mio carattere, io conosco il tuo e tiriamo avanti alla grande senza nessun problema e nessuno ci può mettere le bastone fra le ruote. Vai Claudio. Grazie. No, stiamo discutendo di cosa sceglie. Ciao Claudio. Sì, ma infatti è successo anche a noi due, mi sembra, no? Lo sai benissimo, abbiamo perdonato tutti e due chi ci ha fatto quello che ci ha fatto, perché è una persona che va bene così, e poi ci è ricaduto di nuovo con me solo, l'ho riperdonato, però poi basta, cioè non si può sempre prendere colpi, perdonare, prendere colpi e perdonare, basta, poi alla fine dici, basta, cioè statene per i fatti tuoi, che io me ne sto per i fatti miei, non mi dica più tutto qua. Va bene, sta piovendo, a tutto piovere, e beh, Chihuahua, guarda che c'è il tuo vicino lì, rilancialo a Claudio, riportatore, se vai Eugenio. Io sono Eugenio, sono Porto Torres e sono qua da sotto. Buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao l'altro Claudio, se c'è anche Claudio Porto Torres, e ciao a te anche Giulio. Avanti Claudio di Porto Torres, buonasera. Ciao Eugenio, dopo un po' di tempo ci risentiamo, meglio così. Stavo facendo un'operazione strana, tutto in un tratto mi si è tappato un orecchio e mia moglie mi ha acceso un cono col fuoco, ma nessun risultato, il tappo non è uscito, è rimasto e sono sotto un orecchio, porco cane, non ci voleva proprio. Vabbè, Claudio, se ben ti ricordi i bisticci che c'erano allora, qualcuno è arrivato anche a prendere il fucile in mano e l'hanno fermato per miracolo qui in Vietore Sac, che voleva sparare a Papa Whisky, te lo ricordi? Me lo ricordo sì, io sono entrato nel 73, senza la licenza, nel 75 poi avevo preso la concessione, quindi mi ricordo perfettamente il vissuto da ragazzino, va bene così perché erano anche altri tempi, ma nei tempi di oggi bisogna che la gente la finisca di mettere il bastone fra le ruote alla gente, di andare a parlare, di sparlare, di dire, di fare. Uno deve pensare ai fatti propri, a casa sua, e non andare a parlare male della gente che manco conosci, manco sai chi è, tutto qua. Comunque, va bene, non problema. Ciao Fra, scusa, mi sembravi un genio, ci avete lo stesso segnale, appena a primo acchito mi sei sembrato lui, riprendi e vai per Giulio. Ehi capo, Claudio di Porto Torres, non sono Eugenio, sono Franco di Sorso. Avanti Giulio. Ok, riprendo io, ciao Franco di Sorso, io già ti avevo riconosciuto, però ci vuole poco a scambiare le persone. Sì, e beh, certo, è così. No, Claudio, era una semplice discussione così, visto considerato che eravamo soli io e Claudio, tanto per, ma non, quando dobbiamo parlare di cose importanti veramente non le sbandieriamo noi in frequenza, perché siamo due persone adulte, ci telefoniamo o io a lui o lui a me e parliamo di quello che si deve dire. Bene, bene, tornando al discorso che hai detto tu, hai il cerume nell'orecchio. Guarda, io ce l'avevo avuto da poco, sono andato dal dottorino Claudio, 100 euro mi ha preso, mi è entrata una pinzetta e mi ha tolto un tappo, nello senso della parola, un tappo dall'orecchio e anche dall'altro, tutti e due. Da uno era un sapo grandissimo, dall'altra parte era molto, ma molto meno, diciamo la metà. Però il problema mio era quale? Che io ho fatto una vita di falegname e dunque i rumori, tu lo sai benissimo, producono cerume e io ne avevo in quantità, nonostante il lavaggio, non c'entra niente il lavaggio. Avanti quello che ho fatto Torres. Sì, è così, e anche io non è che ho fatto un lavoro pulito, era in mezzo a polvere e molto altro. Ciao Franco, ma infatti ho detto, ma questo non è Eugenio, caspita, è una voce che conosco, non è Eugenio, però sono caduto in tranello, mi hanno detto saluto Eugenio, ho salutato Eugenio. Capito Franco? Infatti me l'ho immaginata quando Claudio Di Sassari ha detto ciao Eugenio, e me l'ho immaginata che tu pensavi che ero Eugenio, però dai, niente di particolare, non è successo niente. Magari Eugenio ti arriverà forse quanto è me, più o meno, e per quello che ti sarai confuso. Niente. Avanti Claudio, Sassari. Sì, Francia, avete più o meno lo stesso segnale, dai. Siete lì, poi la modulazione anche lui col K, a primo titolo mi sono un po' confuso, dai. Ma no, non fa niente, non ci sono problemi. Va bene, ok. C'è Roberto e Gianfranco che sono ancora sul canale 1 che stanno discutendo, va bene così. E sta sempre piovendo, ancora mia figlia non è rientrata, sto aspettando a lei per vedere cosa dobbiamo mangiare, e vabbè, avanti Giulio. Ok, noi abbiamo già deciso, questa notte abbiamo già deciso, pizza e fainì, quella è la nostra cena di stanotte, sicuramente, come del resto praticamente tutti i sabati. Qui ormai è diventata una, prima eravamo sempre di giovedì con la pizza, poi da un bel po' di tempo questa parte l'abbiamo spostata al sabato, tutti i sabati mancabilmente pizza e fainì e così via, nonostante che mi sono avanzati anche un pochino di gamberi da pranzo, però diciamo che queste prima si mangia quasi di pasto. Va bene, non fa niente, non è un problema quello, è interessante che ci sia sempre da mangiare nelle case, poi cosa si mangia non ha nessunissima importanza, è sempre avere sempre la pancia piena, vero Claudio di Porta Torres? Senza ombra di dubbio Giulio, senza ombra di dubbio. Comunque anche questa sera è così, è famiglia, pizzata e fainè. Si aggrega anche qualche figlio che abita fuori e qui ci sta, insomma ci riuniamo ogni tanto così. Comunque quel cono non mi ha fatto nulla, il sapo c'è rimasto e praticamente un orecchio sono sorto proprio completamente, boh. C'è un bel tappaccio dentro, chissà cosa cavolo è entrato, ma andrò a farmelo vedere. E così. Sì, voglio ripetere il fatto di prima. Quei tempi che furono c'erano certi bisticci, era una cosa terribile e molte volte si sfiorava arrivare con le mani, ma era incredibile, parolacce e cose, ma la vecchia allora ce n'erano tanti, la frequenza era piena e c'era un po' di tutto e così. C'era qualcuno che faceva vino cattivo e si cercava di immaginarlo, insomma di lasciarlo perdere. Però non tutti lo capivano, non tutti lo capivano, così. Poi Franco, non capisco come cavolo fa a arrivare con lo stesso segnale di Eugenio, che Eugenio abita, si può dire, vicino a me. Oh, arrivi forte, arrivi veramente forte qui a casa. Hai cambiato antenna? No Claudio, ho sempre lavorato a turbo. Eugenio c'ha il marecchino e l'antenna di cartone. Master o ce l'ho io in acciaio? Sì, c'è la Grand Master, insomma, non è che sia proprio una cipizzone. Ecco, è registrato. Lo so, dai. Non lo so. In linea d'aria però, dai, siamo più o meno vicini, molto vicini. Io ho portatore, se lo vedo tutto da qua. Davvero. Poi, Eugenio non è a Porto Torres, è anche fuori da Porto Torres, con ciò è più o meno lì, siamo. Ok, avanti il breco. Buonasera a tutti, Caimano. Capo, buonasera Caimano, Franco da Sorso, in compagnia di Claudio a Porto Torres e Claudio da Sassari e Giulio da Lipunti. Avanti, sempre da Sassari, da. Avanti Giulio. Saluto il nuovo entrato, Caimano. Non lo so se è il suo vero nominativo, perché una modulazione mi sembra di aver già ascoltato, comunque non fa niente. Un nominativo vale l'altro, non c'è problema. Sì, ho Claudio di Porto Torres, ma prima, come hai detto tu, quella storia che hai raccontato dell'amico che voleva fare il male con l'altro lì a Porto Torres, ma anche qua c'è stato, in quegli anni lì, quando c'era una persona che quando beveva era veramente stravagante, che offendeva tutti indistintamente, e c'era un altro che poi, tra l'altro adesso tutti e due queste persone sono morti, e era deciso di ammazzarlo. Guarda che c'è stato invece una terza persona che ha detto: guarda, non ti permette di fare una cosa del genere perché sto già andando a denunciarti. E io so i nomi, ma non li faccio i nomi in frequenza, giustamente, perché sono fatti molto ma molto brutti questi. Comunque, anzi, facciamo venire avanti Claudio, avanti il Porto Torres. Sì, meglio così, meglio dimenticare quelle cose. E poi in frequenza siamo tutti amiconi, è meglio che ci rispettiamo l'un l'altro e dobbiamo pensare solo a divertirci e basta, così. Ciao Caimano, per la prima volta non ti ho mai sentito, comunque, ben sentito, è così. Avanti Claudio. Break per un saluto veloce. Vi siete a Porto Torres, cercate di stare tranquilli, siamo arrivando nel canale 12, ciao Mario, buonasera, ti faccio passare subito, ciao a Caimano, Manuel, Samuel, boh, non mi ricordo come ti chiami, io rifaccio il cambio a te e fai entrare a Mario, vai, Caimano. Ora, scusate, cazzo Claudio, Claudio Cotodorra, cazzo, non mi riconosci. Ho capito, ma non mi ricordo il nome. No, c'è Claudio, tu mi Claudio, si porta a Torre, Emiliano, so. Ah, ecco Emiliano, è tuo mano, invece Emiliano, sì Emiliano. Le prendi e fai entrare a Mario, che ha breccato anche Mario lì da Porto Torres. Avanti Mario, ciao da Caimano e compagni. Buonasera, solo per un saluto, buonasera. Saluto veloce, vi stavo ascoltando e niente, solo che adesso chiudo perché ho altre cose veloci da fare, quindi ho voluto salutarvi così. Ciao Claudio di Porto Torres, ciao anche a te Emiliano, se non sbaglio c'era anche Eugenio e tutti gli altri, insomma. Non riprendo più, avanti pure chi tocca, saluti a tutti e buon sabato sera. Eugenio non c'era, è Franco di Sorso, quello ho sbagliato io. Ciao Emiliano, scusa già, ce lo so che eri tu ma non riuscivo a dire il nome. Avanti fra, riprendi. Cappa, ciao Mario, ben ascoltato, un po' più bassino ma io ti ascolto bene. Ti ascolto. Adesso ho capito chi è Emiliano, ma ci conosciamo allora. Vero Emiliano? Qualche anno. E messa tutto bene? Sì, tutto a posto. Poco fa come Caimano non ti avevo riconosciuto, non sapevo chi eri. Va bene così allora. Avanti, che c'è rimasto? Giulio. Ok, saluto Mario prima che vada via, perché lui ha annunciato che andava via e faceva solo un saluto e basta. Ciao Mario, sicuramente mi ascolterai. Io oggi ti ascolto molto bene, molto molto bene, anche se il segnale non è alto, però la radio è ottima, veramente bella, pulita, chiara, come solitamente quando ti sento bene. E rilancio per Caimano, avanti Caimano, Giulio da Lipunti, Sassari. Ciao Giulio, io l'ho acceso oggi, sennò non posso entrare, forse da lì per lo scorso, non volta che tocca estate qua in Mansarda non ci sai dove c'è troppo caldo. Anzi, riesci a meno. Ok. Vabbè, lo so, purtroppo la giornata non è delle migliori, però ci costringe a rimanere a casa, ma ci fa anche piacere perché così possiamo dialogare fra amici in frequenza, per cui tutto sommato per chi ha la passione della radio è un vantaggio. Vero Claudio di Porto Torres? Sì, sì. Ciao Mario, alle prossime. Emiliano, non sapevo che ti chiamassi Caimano, mi sono fregato, eh. Comunque hai migliorato di radio, eh. Arrivi molto bene, sei una buona radio adesso. E quando non le usi, deve essere che si riprende. Ecco. E ogni tanto puoi entrare, eh. Un saluto, puoi entrare. Anche perché se riuscissimo a riprendere questo benedetto canale 12 che poverino è lì zitto non c'è mai nessuno, si sente qualche radio taxi da fuori dell'est ogni tanto e basta. E vabbè, una volta non era così. Vai Claudio. È morto il capomaglia lì, povero Giampaolo, l'avete abbandonato quel canale, non ci teneva tantissimo a modulare nel canale 12, ci teneva tantissimo, quindi se rifate il gruppo attivatelo, a noi fa piacere che venite qua a parlare, per carità, è sempre un piacere ascoltarvi, ma se rifate un bel gruppetto lì, attivare il canale 12, povero Giampaolo, fa solo che piacere, perché lui era sempre lì, lui non mancava mai dal canale 12, dalla mattina, presto, lui svegliava tutti, camionisti e quant'altro, lui e la buona Maricarlo Tiziano, erano sempre lì nel canale 12. Avanti Franco, riprendi. Capo. Ma dice che stava entrando un figlio, voleva entrare in frequenza e poi non si è sentito più. Che fine ha fatto Emiliano? Io sapevo che dovevamo mettere su un'antenna, io dovevo mettere Luca, ma poi non si è più interessato il figlio. Un'epoca buia, non lo so. Non gliene fanno piazzare Emiliano, no. Ci ha provato in tutte le maniere Luca, non gliene fanno piazzare lì antenna, ci ho parlato anch'io col figlio e anche con Donatella, no? Poi Donatella non vuole, se no aggiù di Briago nessuno, pazienza, è andata così, però sappiate che le radio sono tutte lì, ferme e non si toccano, vai fra. Capo, vabbè, quello già ce l'ha i figli, poi deciderà il figlio cosa farne. Però era, comunque, se l'ho sentito un paio di volte, io l'ho sentito, poi non l'ho sentito più, poi ha mollato, vabbè, niente di particolare. Giulio, avanti. Purtroppo la scomparsa di Giampaolo, poveraccio, è stata una perdita che si è fatta sentire anche in frequenza. Per cui, vabbè, purtroppo la vita è crudele, l'ho sempre detto e continuerà ad essere sempre crudele, più delle volte è crudele veramente, comunque non ci possiamo fare niente noi in questi casi qua. Va bene, avanti Emiliano, poc'anzi avevo detto che era una voce che avevo sentito e in effetti è una voce che avevo già sentito altre volte, adesso non mi ricordo da quanto tempo era senza sentirsi, però l'avevo detto e sono più che convinto che è così, sicuramente. Avanti Emiliano, Giulio da Sassari. Ehi, no, io modulavo tanti anni fa, poi l'ho tolto. Non è più montato per molti anni. Adesso quest'anno ci è venuto di nuovo quel pallino, gli ho messo l'antenna e niente, baracchino. Ogni tanto già entro, ma poco e niente. No, e arrivi molto bene anche, arrivi Santiago 9 qua, la radio bella, pulita, chiara e anche forte se vogliamo, non c'è che dire, veramente molto molto molto bene. Avanti Claudio Porto Torres. Sì. L'antenna gliela stavo regalando io a Ennio. Infatti gliela dovevo data a Luca che gliela doveva piazzare, ma non so per quale motivo su ho cessato qualche problema, perché diversamente c'era tutto, c'era la discesa, c'è sempre, doveva solo collegare l'antenna sopra e basta, no? Poi per il resto c'è tutto, alimentatori, baracchini vari, ricevitori, c'è tutto, proprio tutto. E con Giampaolo che ci dica che era un'eterna sfida. Turner più 3 contro lo Shure 5-26. Ogni giorno eravamo in guerra. E sono, è la migliore modulazione della mia, no, è la sua, è mia, è sua, e poi fuori ci davano tutti, ci dice no guarda che è meglio quella, e lui si arrabbiava, caspita quanto si arrabbiava, ma non capite nulla allora, non capite niente, la mia era migliore, no quella di Neva. poverino gatto. Vabbè, è andata così purtroppo. Non stava molto bene e se n'è andato. Vabbè, comunque sempre un bel ricordo e tanti scherzi, tante cose, parlavamo fino a tutta la notte, ma per tutto. E vabbè, vai Claus. No, no, come fratelli siamo nati praticamente nello stesso punto, abbiamo fatto le elementari, le medie assieme, ero molto legato a Giampaolo, io ci andavo molto molto spesso a casa sua e mi ha fatto veramente molto molto male quando mi hanno telefonato alle 11 di notte per dirmi. Vabbè, dunque, io ho fatto il mio dovere. Quando scendo a Porto Torres sono andato ai Santi, a Porto Torres per i miei, e sono passato anche da lui. La foto che c'è, che lui è seduto, perché c'è la foto con lui seduto con le radio, quella lì l'ho fatta io. Ma non avrei mai immaginato che sarebbe andata a finire. E vabbè, è andata così purtroppo. Io ho un ricordo bellissimo di Giampaolo, sia come persona, come tutto. Ho delle foto assieme a lui, ma ho anche la sua radio, una delle tante radio ce l'ho io, e non è qua davanti a me, spenta, senza alimentazione, senza niente. E sopra quella lì c'è un'altra radio di Carlo Titano, e a fianco a quella lì c'è il portatile che usava Corolla Verde. Questi sono i miei tre ricordi principali. Forse sono le tre persone che io ho frequentato come CB e poi con Tore, vabbè, come lo chiamo Tore, ma sia con Carlo che con Giampaolo era una trattoria vera e propria. Io andavo, ho girato tutta la Sardegna con Carlo Titano quando andavo a arbitrare, lo accompagnavo da qualsiasi parte della Sardegna, rimanevo in macchina oppure stavo assieme a lui, ero ragazzino, quindi ho dei bellissimi ricordi anche di Carlo. Vabbè, purtroppo si vive e poi si muore. A te Franco. Noi la vita è questa, non la possiamo cambiare da nessuna parte, purtroppo. Non guarda nessuno, la vita è una roulette. Quando dove si ferma, lui cade, e non va nulla da là. Vero Giulio? E certo che sì, quando arriva la chiamata da qualcuno più in alto di noi, non ci possiamo rifiutare, purtroppo è così, certo, e chi è che non ha un buon ricordo di Giampaolo e anche di Titano, ma io ce l'ho anche di Carcioppo un buon ricordo, ho fatto tantissime cose insieme a loro, anche la notte, lo facevo anche le ore piccole negli anni 70 più o meno, 80 più o meno, per cui come fai a dimenticarti di certe cose? Non è possibile, anzi diciamo che secondo me è anche un nostro dovere intanto ricordare certe persone scomparse, perché se lo meritano, se lo hanno meritato quando erano in vita, per cui è meglio secondo me di tanto in tanto che ci ricordiamo anche di loro. Avanti Emiliano. Eh sì, è vero, era arbitro ufficiale. L'hai ricordato adesso? Mettava in via Sassari, poi in via delle Vigne, anzi, sì, inizialmente in via Sassari, poi di Cavonato lo Stato era andato in via delle Vigne, e in via delle Vigne ancora è, abitava la moglie, capito, va bene. Gavino Carcioffo, Cassetta era 50 metri da me, Gavino Micheli, Gavino Carcioffo, io ero il triangolo del Bermuda, c'era Gavino a sinistra, Ernesto centrale, la buon'anima di Papa Whisky davanti, poi c'era Torre Burone quando girava la direttiva, mi ammazzava, dietro c'era Romeo Sesto, Antonio, Cecchi, il padre di Coso, poi chi c'era? E poi c'era lì al faro, c'era Marina, brutta come Dio l'ha fatta, e poi c'era nella parte di Montangelo, c'era Volpattorni che stava sempre a voci, tra lui e Baraghini, quello che chiamava i taxi e quell'altro che chiamava la barca, Masello, Vichingo chiama, che se non li bucavo vedi, allora cominciavo a diventare un pochino più alto, allora avevo comprato, avevo la KB23 che hai tu, caro Giulio, ok, quella KB23 col pane più due da tavolo, allora iniziavo a dare colpi anche io. E via, e così, ma eravamo tantissimi, avevo il satellite, ce n'erano 10-15, che c'era Vincenzo, Delfino Bianco, Alfetta, Primo La Rossa, chi c'era, vabbè, Ernesto che parlava da casa della suocera, un casino. Ah, qui a fianco a me, proprio a fianco a casa di mamma, Emilia, c'era il padre di Gavino, Corsaro Nero, capito? Corsaro Nero, il padre, il nonno di Gavino Giocca, Corsaro Nero, Gavino Balzano, poi c'è un altro mancando, attaccava Sant'Antonio Mero, ne prendevo pochi di colpi. Avanti Claudio. Forse dimentichi che proprio vicino a te c'era anche una linea 3. Una linea 3, e come c'è, io grazie a lui e alla buon'anima di Don Feno, guarda che io ho il suo nominativo, lo sai, io ho il nominativo di Don Feno, di S0 di FB, quindi, capito, perché lui aveva quel nominativo perché era Don Feno, capito? Mi ha insegnato tantissime cose, io lì ho iniziato a appassionarmi, tra lui e Ettore Burroni che in 27 era GT1, lui e Manola la moglie, capito? Tra loro due io ho iniziato a appassionarmi, ma molto di più con Don Fino, perché io essendo chirichetto la chiesa della Consolata, quando rientravo dalla messa appunto delle 6 e andavo a casa sua, mi sedevo lì, mi guardavo queste cose allucinante, una cosa pazzesca, lui era già radioamatore, c'era proprio una filare che passava nel terrazzo di casa di mamma e poi c'aveva una verticale, non c'aveva altro, faceva tutto con quella. Dei tempi Claudio, porca miseria cosa mi hai ricordato, lo so. Avanti Giulio. Okay. Poi c'era anche il Chisiele con la moglie, anche lui una gran bella persona, veramente, tutti e due veramente, poi c'era Toccai, anche lui un'ottima persona, insomma tutte persone del passato che abbiamo passato delle ore a modulare, per cui sono state sempre delle persone ammirevoli da ricordare, anche se no, chiaramente non quelli perlomeno che sono in vita, le ricordiamo con piacere, ma grazie a Dio già sono tanti in vita, ce ne sono ancora, non possiamo certamente ricordare perché qualcuno è morto, quello sì, quello le ricordiamo con piacere ugualmente e con cuore, perché giustamente deve essere così, la vita umana deve essere caritatevole anche in questo senso. Avanti Emiliano. E voi però state parlando anni 80, mi sa, no? Io molti di quei numeri li conosco, poi dopo non neanche sapevo di uno l'altro. Io sono dopo gli anni 91-92. Don Fede era uno dei primi radioamatori a Porto Torres assieme ad altri che non ci sono più, ma se io elenco quelli che ho conosciuto, come dottor Battoni, dottor Pani, cioè ce ne ho tantissimi, ma tantissimi. Metto Toccai, l'ho detto poco fa, abitavano tutti vicino a casa di mia madre, centro storico, quindi eravamo tutti lì e non abbiamo mai avuto nessun problema, veramente ci divertivamo tantissimo. Bartolomeo Chisiel era nella zona industriale, io ci andavo spesso, ma andavo soprattutto ad accompagnare a Gavrina e a Domenico qua, perché erano molto amici di Gabriella, quindi la linea. E poi era nata la, dove c'è Radio del Golfo adesso, era nata l'associazione Radio Club Onda del Golfo, dove il presidente era Francesco Brancaleone, che abitava, non so se è morto, se esiste ancora, abitava, lavorava a Leniche, abitava lì vicino a casa della Monema e Gianpaolo con la mamma, in viale delle Vigne, e a fianco a lui, a Brancaleone, c'era Gianpaolo, come si chiama, non mi ricordo il nominativo, e poi c'erano tanti, e io ero il più piccolino, diciamo, il più piccolo dei civili produttori, cioè perché io quando sono entrato a modulare avevo 14 anni, però veniva a prendermi Ernesto, quindi mamma mi faceva uscire perché eravamo parenti, mi portava in giro, un'associazione, avevamo fatto la combo, la caccia al tesoro, c'era la buonanima di Cosio, di Eliseo, insomma era un bel gruppo, veramente un grandissimo gruppo c'è stato a Porto Torres di CB, devo dirlo sinceramente, un grandissimo gruppo dove ci sono state delle belle cose, molto molto belle. Avanti Franco. Io riprendo e vi lascio a tutti che sono chiamati da mangiare. Ci sentiamo, ciao Emiliano, ciao Claudio, Giulio e Claudio dei Sassari, ce la riascoltiamo tutte le prossimine. Non proseguo, buon tutto. Avanti Giulio e fai girare. Ok, ciao Franco, salutoni, grazie per la chiacchierata, è stato un piacere. A risentirci domani, magari se coincide, sperando che coincida perlomeno da parte mia. Ci sentiamo, giro, faccio girare per gli amici così ti salutano. Avanti Emiliano per Franco di Sorso. Ciao Fra, ci sentiamo al prossimo. Avanti Claudio Dottor. Ciao Franco, buona carica. Comunque ci stavamo dimenticando una persona che tu conoscevi molto bene, che ci ha lasciato un bel buco, Braccio di Ferro, te lo ricordi? Era un'ottima persona. Mi è dispiaciuto molto quando purtroppo se n'è andato. Vabbè. Lo conoscevi Claudio? Io tu non stai parlando di Porto, stai parlando di Sorso. Io di Braccio di Ferro c'ho un baracchino qua davanti a me. Cosa pensi che io c'ho tutto di tutti, c'ho il baracchino che è l'Uranus, avevo comprato tutto quello.